La première question que je voudrais vous adesso dire. Adesso Sì, funziona? va bene. Ricominciamo da Sì, capo? sì. Io la mia domanda la so. No, stavi dicendo sull'ironia e sulla teoria, questa. Attribuisco all'ironia una funzione assolutamente fondamentale e d'altra parte non c'è ironia se non c'è anche capacità di autoironia. Per cui quell'intervento, qualcuno mi ha anche detto, ma non dovresti fare così, perché dopo sembra che tu non debba essere preso Sul sul serio, serio. certo. Proprio la cosa, diciamo, lì compare proprio come una sorta di rivisitazione che toglie Sì, serietà anche a perché tu quello. hai i capelli bianchi, Certo. cioè, quindi, mentre gli altri sono tutti giovani, quindi Ma io penso è che non bisogna chiaramente essere una presi sul situazione. serio. Io penso che sia essenziale, sapere, capisci, perché l'ironia è onnipotente? Perché l'ironia è la capacità di togliere potenza grazie al linguaggio. Il soldato Schweik che si presenta di fronte al grande generale e gli dice: due parole capaci di annullare nel linguaggio la grande potenza del generale è veramente l'invincibilità del linguaggio, è quelli che il linguaggio, quando tu sei capace di affrontare il dramma più tremendo, riaffermando la completa autonomia, del linguaggio, a quel punto hai l'arma, disponi dell'arma totale. L'arma totale contro il potere è l'ironia, non la satira, bada bene. La satira fa a gara con il potere, ne carica le caratteristiche, ne appesantisce la pesantezza, per così dire. E invece l'ironia è la scoperta del fatto che in fondo la nostra vita non è nulla, la nostra presenza nella storia non è nulla, la storia stessa non è nulla. L'unica cosa che conta è il gioco che noi sappiamo fare e il gioco è essenzialmente un gioco di linguaggio, giocare è produrre segni. Ecco, questa consapevolezza della superiorità del linguaggio secondo me è un elemento importantissimo che lì quando Renato De Maria è un amico, Andrea Pazienza era un amico, anche se un amico complicato, e lì in quella cosa, in quell'intervento nel film io ho avuto l'impressione che fosse giusto dire tutto quello che noi abbiamo fatto, tutto quello che noi facciamo, tutto ciò che costituisce il nostro passaggio materiale e pesante su questa terra non conta nulla. Ciò che conta è la nostra capacità di giocare. Quello è stato un gioco e noi ora lo rivediamo. Ecco, questa è anche, devo dire, l'unica forza che mi rimane o che ci rimane di fronte alla disperata, alla disperante capacità del potere, vabbè, insomma, diciamo, ecco. Sì, di. Tra l'altro, io penso che poi l'ironia è anche una specie di salvavita, eh? Cioè, senza quello nulla ci resta. Perché allora a quel punto se togli la potenza ironica del linguaggio resta unicamente la forza. E la forza è un gioco che fra l'altro noi non sappiamo Sul giocare. quale siamo sempre comunque perdenti noi, Certo, no? Mi sembra che certo. questo dimostra la. Senti, questo era anche Radio Alice, questo è stato Radio Alice, questo è. Io direi che ciò che di Radio Alice rimane come più significativo è questo, è l'ironia. Qualcuno ha inteso l'ironia in una maniera un po' riduttiva, appunto come l'arma contro i potenti. L'ironia non è solamente un'arma contro il potere, ripeto, l'ironia è più un salvavita, che non è neanche, qualcuno potrebbe osservare che in fondo è una magra consolazione quella di disporre dell'ironia mentre ti riducono in condizioni disastrose su tutti i piani. Non è questo, l'ironia non è una consolazione, non è una compensazione contro ciò che il potere è capace di fare, no, l'ironia è in qualche modo un'arma buddista, non un'arma, arma è una parola sbagliata. Uno strumento. Uno strumento, una via simile a quella del buddismo. Il buddismo essenzialmente, per quello che io posso capire, in una cosa così complicata, il buddismo è essenzialmente la consapevolezza del fatto che ciò che sta al centro è il vuoto, ciò che è in più importante è l'impermanenza del nostro essere su questa terra. Bene, se noi siamo capaci di vivere diciamo con la consapevolezza del fatto che ciò che noi facciamo è essenzialmente impermanente, è soprattutto impermanente, bene, siamo capaci di ironia. Radio Lice è stato questo essenzialmente, mentre accadevano tutte quelle cose drammatiche, tragiche, storiche anche in qualche misura, il segno più profondo di quell'esperienza è Maurizio che solleva la cornetta del telefono e dall'altra parte sente un sax che viene messo in diretta per 10 minuti e lui alla fine riattacca dicendo siamo sicuri che fosse Majakovskij. Ecco, il fatto di introdurre nel flusso della comunicazione tecnica, comunicazione umana, esistenziale, eccetera, questa sospensione del senso è a mio avviso il segno più importante dell'esperienza di quella radio. Dunque, potrebbe dire pensatore classico razionalista che abbiamo messo il carro davanti ai buoi, cioè abbiamo cominciato parlando di uno strumento, di una forma espressiva, eccetera, mentre leggendo la tua postfazione a questa nuova edizione di questo vecchio libro su Radio Alice, però molto aggiornata, credo di aver capito che quello che tu sostieni è che in quella vicenda c'erano già in germe, si possono leggere oggi in germe, delle trasformazioni, uso sempre un vocabolario classico, diciamo strutturali del capitalismo e della vita quotidiana nel capitalismo, che sarebbero poi esplose, che sono esplose più tardi, insomma, no? Allora vogliamo magari fare qualche, diciamo, commento su questa cosa, in qualche maniera, insomma, detto per dirla in termini un po', diciamo, sbrigativi, il postfordismo ha delle, diciamo, radici, il postfordismo stava proprio nascendo in quel periodo, anche se forse allora noi non ce ne rendevamo conto, forse tu e altri più, forse tu più di altri, non lo so, ma insomma, diciamo, ancora non era del tutto chiaro. Oggi, a più di 25 anni, quasi 30 di, diciamo, distanza, possiamo fare centro, e mi sembra che tu faccia questo, no? Quindi tutta questa questione del, diciamo, linguaggio, eccetera, in realtà va, come dire, radicata in processi oggettivi, sociali, o no? Una delle cose su cui io ho insistito nell'87 e nel 97, cioè in quelle nel decennale, ventennale, quando si è ricominciato a parlare del 77, complice il calendario, è stato il carattere essenzialmente premonitorio di quell'esperienza. Mi pare che, perché tu ricordi che negli anni 80 e anche negli anni 90, in fondo del 77 se ne parlava poco, vabbè, questo non è grave, ma soprattutto se ne parlava come gli anni di piombo. cioè non c'è certo. Quella assimilazione era la falsificazione storica più assoluta. E infatti, scusa, mi sembra tu scrivesti all'inizio dell'innocenza, il 77 ha vinto, no? Esattamente. Ecco, invece a me interessava dire, e devo dire che oggi mi pare che la cosa comincia a diventare chiara per molti, a me interessava dire, no, guardate, il 77, il movimento del 77, in tutta la sua complessità, e sulla complessità poi bisogna parlarne, in tutta la sua complessità è stato la premonizione di un processo che riguarda la produzione, la società, la comunicazione e l'intreccio progressivo di questi livelli. La produzione è ed era già allora sempre più segnata dall'emergere di fenomeni linguistici, comunicativi, con la crescente presenza delle tecnologie di linguaggio nel sociale, la diffusione dell'informatica, poi della telematica. Non dimentichiamo mai che il 77 è anche l'anno in cui nasce la Apple Computer, Information to the People, che era uno slogan del movimento, diventa lo slogan delle tecnologie di comunicazione. In quel periodo ci fu dunque la percezione di un fenomeno che andava trasformando nel profondo il sistema produttivo. E questo è uno. E poi però, diciamo, il 77 è stata anche la premonizione di una catastrofe che era in arrivo. Il 77 è stato un movimento con dei colori sgargianti e felici, il momento della creatività, il marzo, diciamo, la primavera. Poi il 77 è anche settembre, è anche l'incombere di un sentimento che è il sentimento della fine. Il 77 è anche l'anno di Sid Vicious, dei Sex Pistols, certo. È anche l'anno del No Future, del punk del inglese punk. Tutte e due queste premonizioni sono presenti in quell'anno. Vi è la premonizione di un mutamento sociale e culturale positivo, felice, che è quello della liberazione di enormi energie produttive grazie alla comunicazione, alla tecnologia. Ma è anche l'anno in cui ci si rende conto del fatto che qualcosa di catastrofico sta accadendo nella sfera della vita umana, della relazione tra affettività, e la dimensione affettiva che entra in questione nel 77, mica perché, sì certo, forse eravamo dei tipi un po' teneri, ci commuovevamo un po' eccessivamente, il romanticismo aveva influito su di noi in maniera dannosa, può darsi, ma il punto non è questo, perché tutto ad un tratto un movimento, il movimento femminista, il movimento gay e poi il movimento dei giovani proletari si mette a ridere e a piangere, si mette a interpretare una specie di messa in scena come quella. Ma perché l'affettività stava diventando argomento della produzione, della società, dell'economia, della politica, eccetera. E questo, alcuni filosofi questo lo hanno capito con gli strumenti della filosofia. Sì. Noi lo abbiamo capito con gli strumenti della agitazione politica, per l'affettività, il linguaggio, la comunicazione. Comunicazione vuol dire mettere in comune, creare uno spazio condiviso fra esseri umani. Bene, quando la produzione si fa linguaggio, a quel punto l'oggetto principale del gioco sociale diventa l'affettività. Certo. Nella... sia nei materiali che compongono il libro, sia nella tua postfazione che come dire, cerca di inquadrare storicamente e teoricamente da un punto di vista dell'analisi quei fatti, circola una, almeno per come so, diciamo, l'ho letto io, circola un'idea che è la che è una forma particolare della ripresa dello slogan dell'avanguardia artistica degli inizi del Novecento, chiudere la forbice tra vita e arte, tra diciamo che, per così dire, rappresentazione ed esperienza. Allora vorrei chiederti questa cosa. A tutta prima potrebbe sembrare che questa, diciamo, rivendicazione della pienezza della vita contro il grigiore del potere, della gestione, dell'organizzazione, diciamo, degli stessi strumenti tradizionali del movimento operaio e del movimento rivoluzionario, sia in contraddizione con la scoperta, diciamo, linguistica, con la scoperta dell'importanza del, cioè, come dire, linguaggio. In qualche modo linguaggio e vita, nella cultura occidentale, in particolare nel, come dire, Novecento, hanno a volte giocato con una coppia oppositiva. Penso ad Artaud, per esempio, che era uno dei vostri riferimenti, certo, anche in quegli anni. Come la vedi collegata tu questa cosa? Linguaggio, diciamo, rivendicazione della vita contro la rappresentazione e valorizzazione invece dell'elemento linguistico. Guarda, se vuoi hai, probabilmente hai ragione nel segnalare una specie di superficialità nello stesso slogan dadaista, perché Tristan Tzarak che lancia il grido abolire l'arte, abolire la vita quotidiana, abolire la separazione tra l'arte e la vita quotidiana. I surrealisti ripresero quello slogan in maniera più efficace, forse, dicendo l'immaginazione al potere. Beh, loro, cioè, come dire, loro erano più politici, insomma. Esattamente. Insomma, cioè, lo traducono in termini direttamente politici. Tant'è vero che il maggio del 68 scrive sui muri la frase di Breton, l'immaginazione al potere. Perché dico che c'è un elemento di superficialità? Tanto per cominciare, riprendere queste parole nel 77 voleva dire segnalare la centralità di quel problema, però è vero che vi è stata una superficialità di Tristan Tzarak, come di André Breton, come degli insorti del 77. Dove sta quella superficialità? Nel fatto che non basta dire l'immaginazione al potere, bisogna anche dire quale immaginazione. Cioè, non è sufficiente dire il linguaggio è in gioco, non è sufficiente dire l'immaginazione è in gioco ed è l'energia politica principale. Bisogna dire quale linguaggio, quale immaginazione. E noi questo l'abbiamo capito negli ultimi 25 anni. Perché? Perché negli ultimi 20-25 anni, negli anni che seguono al 77, ma che seguono anche alla diffusione della comunicazione ad alta tecnologia, che seguono la diffusione in Italia delle televisioni commerciali, che seguono poi tutto quello che è accaduto sia sul piano comunicativo che sul piano politico. In questi decenni noi abbiamo capito che l'immaginazione sì è andata al potere, come, ma è esattamente l'immaginazione più orrenda e più meno ironica, più volgare, più oppressiva che ci si potesse immaginare. Diciamo, noi abbiamo chiamato l'immaginazione in campo e credo che abbiamo fatto una cosa giusta, soprattutto perché stavamo segnalando qualcosa che era lì, che stava accadendo. Non è mica merito di Radio Alice se l'immaginazione è andata al potere, è merito delle enormi potenzialità della tecnologia, della comunicazione e dell'economia. Cioè, quando la tecnologia di comunicazione è diventato elemento fondamentale del processo economico, con la pubblicità, con la televisione, con l'informatica diffusa e così via, a quel punto l'immaginazione è andata al potere. Ma noi abbiamo segnalato il problema, credevamo di averlo risolto, no, abbiamo semplicemente detto ecco l'immaginazione al potere, ora decidiamo che cosa siamo capaci di immaginare. Abbiamo lasciato, e qui c'è il problema di tutta un'autocritica non solo teorica ma soprattutto politica che occorre farsi, abbiamo scoperto un territorio, abbiamo detto guardate l'immaginazione al potere. E abbiamo lasciato poi che al potere ci andasse l'immaginazione di Umberto Bossi, per esempio. Ecco, questo è il disastro spaventoso che è accaduto negli ultimi 25 anni. Si tratta di processi che hanno tempi lunghi, per cui per il momento abbiamo scoperto quel territorio. Certo. Ora passiamo alla prossima puntata. Dunque, tu hai segnalato. Facciamo un piccolo intervallo che così. Allora, mi sembra che tu hai segnalato un problema, non so, comunque un dato di fatto, leggiamolo così. Io lo dico in questi termini, l'unica rivoluzione riuscita del XX secolo è una rivoluzione tecnologica. Diciamo, tutte le altre, le rivoluzioni politiche e diciamo, sociali sono tutte in qualche maniera fallite, sono andate al potere per costruire semplicemente forme ancora più oppresse di potere, e noi, insomma, questa generazione in qualche maniera l'aveva già capito comunque, non, anche se con tante cose. Ecco. Allora facciamo un salto all'oggi, tu dici sono passati 25 anni, il processo mi sembra che lo hai diciamo, descritto molto bene, come dire, che significato ha, che senso ha riproporre oggi Radio Alice? Non dico che questo libro riproponga, che dica ricostruiamo Radio Alice, insomma, però in qualche maniera credo che anche qualche idea di questo tipo ci possa essere oggi. Che senso ha quindi riproporre o ripensare l'esperienza di Radio Alice all'epoca del movimento, impropriamente credo detto no global, perché non è un movimento contro la globalizzazione, credo che siamo d'accordo su questo. Ecco, che senso ha riproporlo oggi? Quali passaggi ci sarebbero da fare, oppure già in concreto si delineano oggi per fare in modo che non siano gli automatismi della diciamo, tecnologia e dell'economia a gestire questo passaggio, ma sia invece il libero affermarsi del desiderio degli uomini, delle donne, eccetera. Ma bisogna fare una premessa. Quando nasce il movimento delle radio libere nel 76, nasce sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo, incostituzionale, il monopolio sull'etere. Si trattava a quell'epoca del monopolio pubblico, del monopolio di Stato. Noi ci opponemmo al monopolio di Stato dicendo che nell'etere debbono esprimersi tutte le forze culturali, tutte le debolezze culturali, non solo le forze, benissimo. E fu una battaglia, quella, una battaglia di democrazia, e qualcuno però a quell'epoca ci disse, ad esempio nella sinistra ufficiale, attenzione ragazzi, perché voi adesso fate queste vostre radioline, dopodiché attenti che arriva il grande capitale che nella breccia che voi gli state aprendo conquisterà tutto il terreno. Esattamente come sembrerebbe aver avuto ragione, no? Dobbiamo dire forse che hanno avuto ragione, io penso di no. Certo. Penso di no, perché in primo luogo perché comunque il monopolio sull'etere era destinato a finire, quindi quella battaglia era una battaglia che si sarebbe aperta in ogni caso. In secondo luogo perché era eticamente, politicamente, culturalmente retrogrado ed illegittimo il monopolio. E in terzo luogo perché quella battaglia andava comunque aperta, noi l'abbiamo aperta e si doveva vedere poi nel lungo periodo chi avrebbe vinto e chi avrebbe perduto. 25 anni dopo noi abbiamo la sensazione che le forze e le debolezze della società abbiano perduto la loro battaglia e abbia vinto invece solamente chi? Il monopolio. Siamo ritornati esattamente al punto di partenza. Noi assistiamo oggi è il giorno in cui leggiamo sui giornali le nuove nomine in Rai, cioè il partito dell'iperliberismo aggressivo di Berlusconi, il partito del razzismo della Lega, il partito della violenza post-fascista di Gianfranco Fini, hanno completamente occupato il sistema pubblico, mentre come sappiamo il sistema privato è già occupato per conto suo da quel signore che detiene Mediaset e così via. Bene, allora che cosa dobbiamo dire a questo punto? Beh, dobbiamo dire che la battaglia che iniziò nel 76 è di assoluta attualità, cioè è prima di tutto proprio sul terreno costituzionale, legale. Il monopolio non ha diritto di essere. Ora, è possibile rimettere in moto un processo di di opposizione sul terreno, di sgretolamento del monopolio? questa battaglia oggi deve essere fatta essenzialmente sul terreno della produzione di immaginario, che è prima di tutto produzione di immaginario televisivo. E, sbaglierebbe chi pensasse, attenzione, le radio hanno continuato ad essere dal 76 a oggi credo lo strumento di comunicazione più libero che esiste in Italia. Le radio libere hanno continuato a diffondersi e a proliferare. Poi è giunta la grandissima novità di internet negli anni 90 e anche quello è un terreno, ma sappiamo che le radio e internet costituiscono uno strumento importantissimo ma minoritario di formazione dell'opinione. Ha vinto chi ha gestito il sistema di produzione di immaginario, che utilizza, diciamo così, la strada più semplice, la strada più, se vogliamo, banale per certi aspetti, ma quella che parla direttamente al sensorio umano, diciamo liberando il sensorio di tutta la fatica che si chiama pensare. Vince, questo lo dice Bill Gates in una lettera a Thomas Sebuek, il linguista, gli dice power is making things easy, potere vuol dire rendere le cose facili. Bene, ora la battaglia che noi oggi dobbiamo essere capaci di compiere è quella che ci permetterà di produrre immaginario anche sul terreno facile, se vuoi, della produzione di immagini. Facile per il ricettore, non per il produttore. Il terreno della televisione, è questo il piano su cui noi dobbiamo essere capaci di muoverci nella prossima fase, anche se questo sembra una assoluta utopia, una cosa che è assolutamente al di fuori delle nostre capacità. E invece proprio sul terreno della televisione noi giocheremo la nostra prossima battaglia. Mi sembra una cosa poco, come dire, diffusa anche a, come dire, sinistra. Mi sembra una tesi molto, molto, molto minoritaria. Pochi la pensano così oggi. Guarda, la sinistra ha la tendenza a capire le cose solo dopo che, sul terreno della comunicazione, ha la tendenza a capire le cose dopo che sono già completamente accadute. È successo negli anni 70, può accadere anche oggi. Mi spiego, tutti dicono, quel signore del quale non dico il nome perché mi viene da vomitare, ha guadagnato tutto il potere perché dispone del potere sulla televisione, ora che ha il potere rafforza il suo sistema comunicativo, quindi il suo potere è eterno, è invincibile. Errore per una ragione molto semplice, che quel sistema di potere si fonda su una concezione della televisione che, se siamo capaci di guardare le cose nel profondo, è già vecchio, è già moribondo. Oggi noi, che cos'è la televisione essenzialmente? È uno strumento di comunicazione che presuppone enormi investimenti sul piano della produzione di immagini. Perché noi non abbiamo mai potuto fare una televisione? Perché non disponiamo dei soldi necessari per produrre tutta quella roba. È semplice, è banale, non è tanto il problema di un'antenna potente, è la produzione che non saremmo in grado di reggere. Bene, noi però viviamo nell'epoca di internet e viviamo nell'epoca in cui le capacità di produzione tecnocomunicativa si sono diffuse ad uno strato amplissimo di gente che oggi pratica il media attivismo. I media attivisti, quelli che hanno creato ad esempio la rete Indimedia, sono il vero grande fenomeno emergente in questo periodo, cioè dei ragazzini di 20 anni che hanno la telecamera incorporata da quando avevano 6 anni, sì. I quali hanno una capacità di catturare, di far circolare immagini ad altissima, con altissima competenza e rapidità. Bene, questi però non entrano dentro la televisione ufficiale, sono nella rete. La rete Indimedia raggiunge l'1% della popolazione, dunque non fa opinione. È un fenomeno importante per il movimento, per una minoranza, diciamo, intellettuale, agente, ma non diventa opinione. Allora qui il problema è questo: noi dobbiamo interfacciare il sistema reticolare della produzione mediatica, cioè i 100.000 media attivisti che nel mondo producono video indipendente e lo mettono nella rete telematica, Questo sistema lo dobbiamo interfacciare con la televisione, sapendo che però la televisione deve essere concepita in una maniera nuova rispetto a quella, non è più la grande televisione nazionale. Proviamo a pensare alla televisione come una realtà che si può invece costruire con costi bassissimi a livello di quartiere, a livello al limite di caseggiato. Io posso prendere tutto quello che mi arriva dentro il mio computer, il video streaming prodotto dai media attivisti argentini palestinesi, lo posso prendere e lo posso inserire all'interno di un microtrasmettitore che costa all'incirca 1000 euro, un microtrasmettitore a cortissimo raggio, e con questa specie di walkie-talkie televisivo ho la possibilità di riportare il contenuto della rete telematica dei 100.000 produttori di video indipendente, lo posso riportare all'interno dell'elettrodomestico televisivo che la signora del piano di fronte, la signora della casa di fronte ha nella sua casa. Ora, io ho l'impressione che nel futuro noi potremmo andare verso una completa decomposizione del sistema televisivo, frammentandolo all'estremo, come fanno già a Napoli quelli che fanno le televendite di caseggiato, vendono tappeti, nessuno gli dice niente, è illegale, perché è illegale possedere un trasmettitore, ma chi se ne frega, Napoli tutto illegale, va bene anche quello. Ora, perché noi non proviamo a fare come i napoletani, ma invece di fare delle televendite facciamo vedere quello che succede a Ramallah in tempo reale, mentre tutti ce lo nascondono? Perché non proviamo a fare sapere quello che succede nei quartieri di Buenos Aires, grazie al lavoro che stanno facendo? Fare un cortocircuito tra un sistema di produzione e di circolazione, tutto sommato ormai abbastanza tradizionale come la televisione, e invece quello nuovo, aperto, reticolare, accentrato, acefalo della rete, tentando su questa con questo incontro, come dire, di produrre esperienze di nuova televisione, chiamiamola come dici tu, e anche di mettere in crisi il modello televisivo che finora è imperante. Ma questo secondo te ha qualche, come dire, fondamento nella situazione oggettiva, o è un puro tentativo, così tanto per fare qualche esperienza? Dunque, prima di tutto, negli ultimi anni si è parlato moltissimo di convergenza, è una delle parole chiave degli ultimi 2-3 anni. Convergenza dei media, no? Dei media tra loro. Convergenza mediatica. In realtà abbiamo visto molte manovre finanziarie, pensa alla fusione AOL, Time Warner, abbiamo visto grandi manovre finanziarie, scarsissimi risultati di tipo comunicativo, di tipo effettivo, produttivo, eccetera. Per cui il sistema tecnocomunicativo continua a svilupparsi sull'offerta di infrastrutture, fast web, la fibra ottica, l'UMTS, la creazione di infrastruttura. Questa infrastruttura è a tal punto cresciuto che nel settembre dell'anno scorso ho letto su Financial Times che la fibra ottica nel mondo è utilizzata al 2,8% delle sue potenzialità. Ah, certo, ti danno 10 mega su internet, cosa te ne fai 10 mega sul server? Beh, allora qual è il punto? Che ci sono due livelli su cui il sistema tecnocomunicativo, diciamo, dominante per intenderci, quello che dispone di grandi danari, non è a livello. E questi due piani sono la creazione di interfacce d'uso e la produzione di contenuti. E questo è il terreno che non appartiene al capitale, è il terreno che appartiene ai lavoratori cognitivi, appartiene a noi. Siamo noi che possiamo, certo, se ci danno molti soldi produciamo dei contenuti, cioè se c'è un grande investimento in contenuti verrà fuori forse qualcosa, Ma non è così che funzionano le cose. Non è che siccome gli ingegneri inventano infrastrutture nuove, i capitalisti investono grandi capitali e allora gli artisti si mettono a produrre. Non è così. Non funziona così. Come funziona realmente? Funziona sulla base di una dinamica che possiamo chiamare affettiva, desiderante, sociale, in qualche maniera, ma che dipende dalla capacità di creare concatenazioni di produzione, di comunicazione vera, effettiva. Allora, la mia tesi è che la produzione di contenuti e la creazione di interfacce d'uso che siano capaci di mettere al lavoro le enormi potenzialità nuove della larga banda dipende da una nuova onda di movimenti sociali della comunicazione. Che vuole dire? Il mediattivismo è una prova di questo. Gran parte dei contenuti nuovi sono, e anche delle modalità di creazione di questi contenuti. Pensa ai giorni dell'occupazione israeliana di Ramallah. Io per alcuni giorni ho seguito quello che succedeva di fronte al mio computer e con un ritardo di 10 minuti sapevi quello che... Una pallottola è stata sparata, una colpita alla pancia, lì ci siamo spostati, ero in quella strada, certo. Sapevo perché ero lì, vedevo quello che stava accadendo. Bene, ora questa qualità comunicativa ci dà l'idea di quello che potrebbe essere l'uso delle nuove potenzialità tecnologiche. Ma allora mettiamoci un poco a lavorare. Tu mi dicevi, ma non, questo è semplicemente una sperimentazione o è invece una potenzialità? Io ti risponderei, le potenzialità del futuro dipendono dalle sperimentazioni che siamo in grado di fare adesso. D'altra parte è vero che sul piano politico noi usciamo da questa situazione solo con un colpo di genio, con una invenzione sociocomunicativa nuova che ci permetta di ridislocare completamente il campo della comunicazione sociale. Noi stiamo facendo un tentativo in un piccolo quartiere di Bologna, che è proprio quello della costruzione di una televisione di strada. E quanta gente raggiungeremo? 50 persone? 100 persone? 500 persone? Niente! Niente! 500 persone uguale zero. Bene, però se questo principio diventasse un principio culturalmente interessante, vorrei dire affettivamente simpatico, per cui la gente, sia gli ascoltatori che i mediattivisti, che gli operatori del settore, dicono, ma cazzo, qua c'è un maiale ignorante che detiene il 99% dell'emittenza in questo paese. Dall'altra parte ci sono degli squinternati che non hanno nemmeno una lira da sbattere contro un'altra, che costruiscono, e lo possiamo fare anche noi, possiamo fare la stessa cosa. Non è forse possibile che proprio di lì parta, esattamente come nel 76, un processo che poi si generalizza. Nel 76 le radio libere diventavano da 0 a 300 nel giro di un anno. Nel giro di un anno 300 radio libere emettevano con continuità sul territorio nazionale e non se ne sono andate più. Ora, questi sono i processi che modificano il campo sociale e che modificano anche i rapporti politici. Faccio l'avvocato del diavolo. Si è già ripetuta nel secolo scorso un processo simile. Adesso vediamo se ci sono degli elementi nuovi. L'avanguardia, appunto, cioè, si è detto prima, no? Teorizzò, disse, l'immaginazione ha il potere, eccetera, eccetera. Quando ci fu la, come tu prima dicevi, la convergenza tra l'economia, la politica, l'investimento, eccetera, diciamo, l'immaginazione prese il potere nel modo diverso. Non c'è il rischio che di nuovo succeda una cosa di questo tipo, o a tuo invece parere la presenza di un elemento tecnologico nuovo come diciamo, la rete è diciamo, l'elemento cardine, oppure ci sono altre, come dire, variabili che ci possono far sperare che come dire, almeno a, come dire, di avere qualche possibilità di non essere immediatamente recuperati, voglio dire. Dunque, per prima cosa, qui c'è proprio una tesi che, come sai, che credo condividiamo, d'altra parte, relativa alla rete. La rete ha un carattere del tutto nuovo rispetto alla storia delle concatenazioni umane precedenti ed è, vorrei dire, quello della sua... questo carattere nuovo può essere considerato, può essere sintetizzato con la parola infinità, la rete è infinita e nell'infinito non c'è maggioranza, non c'è modo di colonizzare l'infinito, certo. Perché quello sguscia sempre fuori da un'altra parte, cioè uno spazio virtuale che risulta dalla interazione fra innumerevoli agenti di senso, è uno spazio che secondo me non può essere colonizzato. Punto. Questo, diciamo, questa considerazione motiva il mio, se vogliamo chiamarlo così, ottimismo relativo alla rete. Però io ho imparato che bisogna essere capaci di ragionare con più cervelli, cioè bisogna pensare una cosa e anche pensare il suo contrario. Per cui io sono anche... fino ad ora ti ho dato una risposta di tipo ottimistico, sì. Però sono anche disposto ad ammettere che è perfettamente attendibile e realistica una risposta di tipo pessimistico, e cioè sì, no, benissimo, la rete avrà queste infinite potenzialità, ma la messa al lavoro della rete non è mai infinita, è sempre filtrata da interessi socialmente, politicamente, e economicamente. Quindi il capitale sussumerà in qualche modo. Esattamente, è possibile che sia così, anzi è probabile che sia così. Io in realtà ho l'impressione che noi dobbiamo smetterla di attenderci la perfezione nell'umano o la società giusta o la società perfetta. E dobbiamo pensare che il nostro compito è quello di sviluppare in permanenza una dinamica nella quale il potere è continuamente rimesso in questione dall'invenzione. In questa dinamica, capisci, nell'epoca in cui potevamo credere nel verbo dialettico, noi pensavamo che la società capitalistica, la società dell'oppressione totale, e si tratta invece di instaurare la società della liberazione totale. Bene, quello era un pregiudizio di tipo idealistico. Noi viviamo in una situazione nella quale dobbiamo essere capaci di nutrire in noi un sentimento di disperazione e contemporaneamente una energia creativa, e l'uno e l'altro non si annullano, non debbono, se ne siamo capaci, poi la depressione fa il suo corso, certo. Ma dovrebbero queste due forze non annullarsi intellettualmente l'una con l'altra, dovremmo sapere che la violenza prevale, che la volgarità è più forte, che il profitto è più potente della libertà, e al tempo stesso sapere anche che però la libertà rimette continuamente in gioco le cose, che però l'invenzione è più leggera e dunque più forte a modo suo di quanto lo sia il profitto, eccetera, eccetera. Vedi, io proprio in questi ultimi mesi io ho partecipato a due cose del tutto in contraddizione fra loro. Da una parte la presentazione di Alice il Diavolo, il rilancio della tematica legata all'invenzione degli anni 70, del 77, e anche la frequentazione di questo movimento che io chiamo alter global, insomma di questo movimento globale che abbiamo visto a Seattle, che abbiamo visto a Genova, che abbiamo visto diciamo negli ultimi mesi in giro per l'Italia, conquistare. Bene, partecipo a questa vicenda. Contemporaneamente io ho vissuto questo ultimo periodo con un senso molto profondo di disperazione, la parola che più vicina quello dopo, alle cose dopo l'11 settembre dici dopo, ma anche quello dopo anche, Genova anche diciamo Genova, Genova mi ha provocato un sentimento di un sentimento sostanzialmente di disperazione di fronte alla consapevolezza. Prego. Sì? Sì, sto facendo un'intervista, ti chiamo io dopo. Ciao, ciao. Io ho pubblicato un librettino che esce proprio in queste settimane, che si chiama Un'estate all'inferno, che è un tentativo di guardare in faccia il mostro del fascismo. Del fascismo, uso questa parola, sai, certo. Lo so che non bisogna, il fascismo è un fenomeno storico, me ne frega un cazzo. Per me io uso la parola fascismo come lo fanno delle Guattari e loro dicono loro dicono fascismo è quando si nasconde una macchina da guerra in ogni nicchia. Poi puoi chiamarlo anche in un'altra maniera, albero di Natale o anche nell'Antiedipo il corpo centrale cattivo, insomma sì, sarebbe, è la dimensione aggressiva del corpo centrale. Ma quella frase sì, è quando si nasconde una macchina da guerra in ogni nicchia. Ma guarda, questa nascondere una macchina da guerra nella nicchia affettiva, nella nicchia comunicativa, nella nicchia della vita quotidiana. Sì. Ecco, questo è quella cosa lì, il mostro, l'orrore, la forma estrema del potere. Bene, noi viviamo in un momento in cui questo nascondere una macchina da guerra in ogni nicchia è assolutamente all'ordine del giorno. È la quintessenza dell'epoca in cui noi viviamo, non solo perché la guerra ritorna di assoluta attualità, non solo perché la produzione, l'old economy, si riafferma nel mondo grazie al petrolio e alle armi, cioè i due grandi strumenti della guerra, non solo per queste, ma anche perché la comunicazione è diventato un sistema di guerra. In Italia la cosa è benissimo. Dunque, io mi rendo conto del fatto che la realtà è questo, è il nascondere tutto quello che succede dopo l'11 settembre, l'idea secondo cui la sicurezza diventa il gioco principale, quando in realtà la sicurezza è guerra, ed è una guerra stupida fra l'altro, perché la sicurezza non assicura niente, è l'amicizia che assicura, è grazie all'amicizia che tu puoi sapere che vivi in un mondo che è a tua misura, ma l'amicizia è un linguaggio che sembra diventato difficilissimo da poter parlare, perché ciascuno pensa alla propria sicurezza, cioè all'inimicizia dell'altro nei suoi confronti e all'inimicizia propria nei confronti dell'altro. Bene, io lo so che è così. Non è che non sono un utopista stupido, vorrei essere un utopista ma non stupido se è possibile. E come è fatto un utopista stupido? È uno che sa che l'utopia non è il mondo e però tiene stretta l'utopia, si tiene stretta l'utopia. Perché? Perché l'utopia è un'evasione? No, perché l'utopia è la dinamica, l'utopia è l'imprevedibile. Ecco, non è guarda, l'imprevedibile, tutto è perduto. Bene, resta una forza e quella forza è l'imprevedibile. Ma cos'è l'imprevedibile? L'imprevedibile è l'oggetto dell'invenzione. E cos'è l'invenzione? La cosa che noi, i lavoratori cognitivi, hanno nel proprio cervello. Dunque, proprio quando tutto è perduto, e non c'è dubbio, in questo paese tutto è perduto, nel mondo dopo l'11 settembre tutto è perduto, a Ramallah come a Gerusalemme tutto è perduto, ma proprio quando tutto è perduto, e dunque occorre essere disperati, non essere disperati sarebbe un segno di, cioè essere disperati è un segno di intelligenza, certo. Bene, però proprio quando tutto è perduto rimane una cosa sola, l'imprevisto, ma l'imprevisto è proprio ciò di cui noi ci occupiamo, noi siamo qui per occuparci dell'imprevisto, non perché siamo dei bizzarri tipi che ne fanno una nuova tutti i giorni, ma semplicemente perché l'imprevisto è il lavoro del lavoratore cognitivo. Il lavoratore cognitivo è colui che lavora l'innovazione. L'innovazione è ciò che non sta nella serie degli eventi già conosciuti. Bene, dunque, siamo disperati, ma pensiamo all'imprevisto. Questa è un po' il sentimento con il quale mi sento di agire. Dunque, sentirsi parlare a me, che cioè, mi dà sempre delle contro ogni logica delle speranze. Volevo chiederti questo: l'imprevisto non è il futuro, ti chiedo, no? Non è una versione aggiornata del marxismo più, come dire, positivistico, cioè quello che prevede una ineluttabile fine a una certa contraddizione. Esatto. Cos'è? Che cosa? No, anzi, siamo distantissimi da quello, perché il determinismo marxista, poi il povero Marx, sì, poi no, ha poche colpe. Il determinismo dialettico essenzialmente dice: nel modo in cui le cose sono oggi, sviluppo delle forze produttive, contraddizione nei rapporti di classe, nella cosa quale essa è implicito, è contenuto come la famosa spiga nel famoso chicco di grano di Engels, è contenuto un futuro felice. Beh, quella era una bugia, non è vero. Noi diamo la prova del fatto che non è così. E se vogliamo, poi possiamo anche spiegare quanto le cose non stanno così. Se noi guardiamo la configurazione del potere, della violenza organizzata dal potere, cioè della guerra, e del modo di produzione, il dominio che il grande capitale ha acquisito sull'intero sistema produttivo, bene, non c'è che da essere disperati. Il futuro è tremendo. La catastrofe che noi abbiamo vissuto nel corso degli ultimi 20 anni è una diciamo da Reagan e da Thatcher in poi, ha prodotto nell'ambiente inquinato che ci circonda, nell'ambiente mentale, nella testa della gente, nelle forme di produzione, ha prodotto le condizioni per un futuro assolutamente disumano. Bene, nonostante tutto questo c'è una cosa che rimane incontaminata, e quella cosa è la forza invenzione, è la capacità di un artista o di uno scienziato, o meglio di uno scienziato e di un artista che si incontrano, di inventare una cosa che non solo non c'è, ma non è prevedibile. Per l'invenzione è proprio questo, è ciò che non è prevedibile. Se fosse prevedibile non sarebbe un'invenzione. Dunque è l'esatto contrario di ciò che ci dice la dialettica. Nel chicco di grano ci sta la spiga di domani. Il chicco di grano è l'uovo del serpente di cui ci parla Bergman, quello è il chicco di grano. Ma nonostante l'uovo del serpente, che è destinato, secondo la logica del determinarsi degli eventi, è destinato a produrre l'Hitler di domani, il nazismo di domani, bene, nonostante questo ci sono gli artisti e ci sono gli scienziati. Ed è grazie agli scienziati e agli artisti, che io chiamo cognitari perché mi piacciono le parole nuove, è grazie a loro che è data la possibilità di pensare che sta per accadere qualcosa che modifica non solo il campo dell'esistente, ma anche il senso di ciò che noi vediamo. Ecco, d'altronde la storia degli ultimi secoli è questo, è il susseguirsi di continui mutamenti radicali del campo che sono dovuti alla forza invenzione. La forza invenzione che ci ha permesso di vedere quello che era lì ma non vedevamo, o che ci ha permesso di creare quello che avrebbe potuto esserci ma non c'era. Bene, questa è la speranza che ci rimane. Noi dobbiamo al tempo stesso essere disperati perché vediamo come le cose stanno, e utopisti perché sappiamo che vi è una forza che sta dentro il nostro cervello, tanto più il nostro cervello in connessione, che rende possibile l'impossibile, ciò che è attualmente impossibile. Insomma, tu vuoi dire che il possibile è più grande del prevedibile, insomma. Assolutamente, se fossi un matematico lo spiegherei meglio ancora, ma il possibile è il campo di tutto ciò che il prevedibile vuole ridurre a ripetizione del presente, ma la forza invenzione è la capacità di vedere ciò che non si vede nel campo del prevedibile. Certo. Secondo te l'angelo di Clay Benjamin vedeva queste cose, guardava queste cose, o è ancora un angelo troppo legato alla dialettica? Dunque, Benjamin è un grande, però è un grande che vive nel mondo nel XIX secolo, per buona parte. L'angelo di Benjamin è come tutti coloro che pensano che il processo, insomma, il futuro nasce dalla memoria, sono destinati o al determinismo dialettico o alla disperazione senza vie d'uscita. So che c'è l'angelo di Benjamin, so che è vera quella cosa lì, però noi dovremmo riuscire ad essere un angelo d'altro genere, un angelo che non procede guardando all'indietro, che procede ignorando l'indietro. Io credo che ce ne sia più che sufficienza. Sì, io non sono riuscito a dire più di una volta, fare più riferimenti più di una volta a Un'estate all'inferno, a questo ultimo libricino che mi serve, sì. Però... perché mi stava venendo l'idea che forse ne posso fare due di interviste, una per Palp e una per Unità, separando un po' i temi. Lasciando per Palp tutta la parte... Vabbè, tra l'altro, siccome Stefania Scattini mi ha detto che lei non trova il tempo per farlo... Ma allora adesso io la sento, perché devo scrivere qualche cosa per loro. Secondo me magari... aggiungiamo qualche cosa, se vuoi, su questa... Sì. Perché io questa magari l'ha capito, la come dire, depisto su Unità. Tanto c'ho un'altra cassetta. Ecco, diciamo, racconta questo, come è nato il... Guarda, Un'estate all'inferno è un tentativo per me abbastanza nuovo, tanto per cominciare nella scrittura, è un diario. È il diario dell'estate del 2001, da quando il 13 maggio ci sono le elezioni politiche in Italia, a una conferenza che vado a fare a Parigi a proposito delle elezioni in Italia, al ritorno nei giorni di Genova, alla partenza, poi parto per l'India, vado a trovare mia nipote che è monaca in un convento buddista nell'Himachal Pradesh, ritorno e poco tempo dopo c'è l'11 settembre sullo schermo della mia televisione. Questo è un diario in cui io racconto. Ora, questa cosa qui, io non devo dire che ho sempre avuto antipatia per i diari e per quelli che raccontano l'autobiografia. Ho sempre pensato, ma come cazzo si permette quello? Chi si crede di essere che mi racconta la sua vita? Poi, in realtà, devo dire che ho sempre avuto antipatia per le autobiografie o le biografie, e però le ho sempre lette come con un gusto un po' morboso. Bene, allora, questa volta ho deciso che mi è venuto questa cosa. Mi è venuta, devo dire, su un autobus tra Patamkot e Dharamsala nel nord dell'India una notte, e io per tutta quella notte, questo viaggio è il 26 luglio, quindi diciamo 5 giorni dopo Bolzaneto, e io da 5 giorni non riuscivo a pensare ad altro, non riuscivo a pensare ad altro che a quella notte in cui la polizia al servizio di Gianfranco Fini, Giuseppe Ascierto e quella banda di criminali che stanno al governo in Italia avevano massacrato 63 persone con le ossa rotte, una cosa che non può accadere se non sulla base di una volontà criminale assolutamente determinata. Ora, io in quei giorni, lo confesso, ho pensato ininterrottamente alla violenza, cioè ho pensato come posso io, con i miei limitati strumenti, fargliela pagare a questi fascisti. E in realtà, mentre pensavo questo, cioè pensavo come posso aspettare Fini sotto casa, abita a Bologna, con una spranga gli rompo la testa, cioè pensavo delle cose assolutamente ripugnanti, delle cose che mi facevano stare male, e però non riuscivo a cacciarle dal mio cervello. Ora, contemporaneamente stavo partendo per l'India, perché là c'è mia nipote che fa la monaca, guarda caso, e si occupa per l'appunto di non violenza. Per cui io devo dire che in quei giorni ho anche pensato, no, non ci vado più in India perché è più importante stare in Italia, e per un paio di giorni sono stato un po' con l'incertezza del che fare. Poi alla fine mi sono detto, no, basta, se sto qua mi ammalo o faccio delle stupidaggini, per cui meglio che parto per l'India. E questo viaggio in India, nel quale sono stato malissimo, mi è venuto una cosa alle orecchie, bronchite, lì c'era il monsone, faceva caldo, faceva freddo, pioveva, però è stata un'esperienza ai limiti del non nessun misticismo, proprio una cosa invece molto, molto dialogica, perché ho incontrato questi monaci che sapevano tutto su Genova, che avevano tutte le loro opinioni, che qualche volta avevano opinioni anche tutt'altro che non violente, eccetera, eccetera. Però è stato come un viaggio ai confini della realtà, in un mondo completamente sospeso, un villaggio di profughi tibetani che vivono lì dal 49, che vivono lì in condizioni assolutamente elementari di vita quotidiana, e che però hanno un gusto tutto che si capisce solo facendo riferimento al buddismo, un gusto per la chiacchiera, l'approfondimento, il discorso che non porta da nessuna parte, l'ironia, certo, in fondo. Ecco, quando sono rientrato in Italia, diciamo, il mio è stato un viaggio nella mia malattia, nella malattia che Gianfranco Fini mi aveva attaccato, cioè questi porci mi avevano attaccato la malattia dell'odio, della violenza e del desiderio di rivincita. In qualche modo quel viaggio mi ha curato, non mi ha curato del tutto. Siamo rientrati, io sono rientrato con mia nipote, che finiva aveva un periodo di vacanza, e appena siamo rientrati abbiamo comprato i giornali, leggevo La Stampa e lei leggeva il Corriere della Sera, in treno, mentre ritornavamo da Fiumicino verso Roma, da Roma verso Bologna, e a un certo punto mi sono accorto che mia nipote si era messa a piangere, mentre io continuavo del tutto freddamente la lettura del giornale. Ecco, lei che da 2 anni stava in quel mondo e che vive prevalentemente senza la disgrazia quotidiana di leggere i giornali italiani, aveva, leggendo i resoconti di quello che stava succedendo in Italia, cioè ogni giorno c'erano nuove testimonianze di infermieri, poliziotti, sì, manifestanti, questo, quello che raccontavano l'orrore infinito di Bolzaneto, ecco, lei di fronte a questa cosa si è messa a piangere, e ma ha anche detto delle cose che io racconto in questo libricino, sì, che in fondo continuavano a ritornare su questo tema. Come è possibile vivere in un mondo nel quale la violenza diventa in qualche modo la sanzione di ogni relazione umana? È possibile vivere in un mondo di questo genere eppure rimanere immuni senza dal germe, senza farsene contaminare? Certo. Ecco, questo un po' è l'argomento di un'estate all'inferno. Dopodiché arriva l'11 settembre, che io lì ho cercato di raccontare da telespettatore, perché io l'ho visto come tutti, come la grandissima maggioranza di noi, l'ho visto tac, lì di fronte allo schermo televisivo. E l'11 settembre, io devo dire la verità, dopo l'11 settembre ho pensato, questo è uno shock così grande che forse perfino George Bush capirà che non si può rispondere a questa follia con la follia. che a questa follia bisogna rispondere finalmente parlando di amicizia, dicendo chi ha fatto questo e mai. Tra poco Antonio Caronia.